storia e la memoria di Dino Pesole. Essendo fidanzata con un prigioniero di guerra tedesco ed avendo a oggi una bambina, faccio appello a codesto comando di voler concedere l'autorizzazione onde poterci unire in matrimonio, sebbene prigioniero. Rimasta sola a crescere la figlia nata dall'amore con un soldato tedesco, Lola Oldrini si rivolgeva con queste parole alla Commissione Alleata di Controllo di Roma nel luglio del 1946. Come lei, nel periodo dell'asse Roma-Berlino e poi durante l'occupazione nazista, tra il 1943 e il 1945, molte donne italiane intrattennero relazioni sentimentali con militari tedeschi della Wehrmacht, fidanzamenti voluti dalle famiglie d'origine, relazioni di lungo periodo sfociate in matrimoni misti cosiddetti, oppure relazioni extraconiugali e incontri fugaci ricercati per bisogno d'affetto e protezione nei giorni della solitudine della guerra. I bambini nati da questi incontri, considerati appunto figli del nemico, furono spesso oggetto di discriminazione, subirono l'abbandono delle madri, passarono l'infanzia chiusi in orfanotrofi, negli istituti di cura o vennero dati in adozione. Attraverso le lettere private e i diari dell'archivio segreto del Vaticano e dell'archivio delle Nazioni Unite, la storica Michela Ponzani racconta le loro vite dimenticate insieme a quelle dei loro genitori e di chi se ne prese cura. Storie sconosciute, per molti versi sorprendenti. Lo fa nel libro Figli del nemico, le relazioni d'amore in tempo di guerra, 1943-1948, appena pubblicato dalla Terza. Buonasera, storica dottoressa Ponzani, e bentornata. Buonasera, grazie. Allora, ascoltiamo prima di tutto insieme questo passaggio tratto dall'introduzione del suo libro. Sepolta da anni sotto il peso della rimozione individuale e collettiva, la storia di queste amanti del nemico e dei loro figli pare segnata da un senso di colpa insormontabile. Per sfuggire alle sofferenze e alle privazioni imposte dalla guerra, si sono aggrappate all'amore per lo straniero, a relazioni affettive molto spesso dal carattere extraconiugale, vista la lontananza dei loro uomini partiti per il fronte, mandati a combattere in terre lontane o fatti prigionieri in Germania. Ecco perché, con la liberazione dell'aprile 1945, la condanna o l'assoluzione per la colpa di essere state le amanti dei tedeschi peseranno fortemente per determinare la simbolica esclusione o la reintegrazione nella comunità nazionale. Allora, Michela Ponzani, è la storia, possiamo dire, la storia di donne considerate appunto amanti dello straniero, amanti del nemico, e quindi hanno subito nel corso degli anni che seguirono alla guerra, appunto quelle che lei poi racconta nel libro, vale a dire dei problemi molto seri di integrazione anche per quanto riguarda poi i figli che sono nati da queste relazioni. Sì, certo, si tratta di una vicenda storica nazionale completamente esclusa dalla ricostruzione postbellica di quegli eventi, perché queste donne, essendo state amante del tedesco invasore, incarnavano nell'Italia del dopoguerra, nell'Italia antifascista e democratica, rifondata sul mito del partigiano combattente, tutti i disvalori della nazione, e quindi i loro figli erano considerati figli della vergogna. Dunque, queste donne nel dopoguerra scontano una doppia discriminazione: da un lato quella di essere state le amanti del tedesco e quindi di portare sulla loro pelle appunto un senso di vergogna, e dall'altro anche il fatto di aver avuto dei figli illegittimi nati fuori dal matrimonio. E per l'Italia democratica, nonostante l'avvio di un processo costituente e l'inizio di una nuova esperienza democratica, l'Italia considera ancora le madri di figli illegittimi donne fuori dalla morale, quindi donne che hanno avuto delle relazioni indicibili e che quindi si vedono costrette ad abbandonare i loro figli nei brefotrofi, negli orfanotrofi gestiti dall'Opera Nazionale Maternità Infanzia o dalla Croce Rossa, oppure ancora dai piani di ricostruzione dell'URRA, delle Nazioni Unite, questi bambini, i quali poi sconteranno una vita di abbandono, di discriminazione, di esclusione sociale e anche di trauma, un trauma molto profondo che arriverà a decostruire la loro stessa identità. Quindi possiamo sostenere che queste donne furono vittime di un passato che la Repubblica voleva in qualche modo rimuovere o dimenticare, e quindi furono oggetto anche in qualche modo di una rimozione che è un atto politico, se vogliamo. Certo, nella costruzione della memoria postbellica del secondo conflitto mondiale, tutto ciò che non rientrava nei canoni, tutti i fatti scomodi, dagli stupri di guerra appunto alle relazioni che gli italiani e le italiane avevano avuto con militari e civili tedeschi, non potevano essere ricordati, perché questo avrebbe significato in qualche modo ricordare l'alleanza che l'Italia aveva avuto con la Germania nazionalsocialista, e quindi la politica imperialista di aggressione condotta nella guerra dell'Asse. Infatti, vedo appunto nell'introduzione si parla di racconti da dimenticare in fretta. Allora, questa è una ricerca che lei ha condotto soprattutto a livello di archivi. E cosa emerge esattamente? C'è un epistolario? Come è riuscita a ripercorrere le vicende umane di queste donne? Ma anzitutto consultando le numerose lettere, testimonianze, diari conservati presso l'archivio segreto Vaticano nel fondo ufficio informazioni per i prigionieri di guerra. Si tratta di lettere che donne italiane, centinaia di donne italiane, inviavano fra il 40 e il 1947 appunto alla Santa Sede per ricercare, per avere informazioni di quei militari tedeschi detenuti nei campi di prigionia anglo-americani che avevano conosciuto durante il conflitto. Si tratta di circa 110.000 prigionieri nei campi anglo-americani di Rimini, di Livorno o di Napoli, e questa è una prima fonte. La seconda fonte è quella che riguarda tutti i programmi di assistenza all'infanzia, di welfare per l'infanzia e i programmi di adozione a distanza gestiti dalle Nazioni Unite nel famoso Foster Parent Plans, che aveva stabilito un programma appunto di ridefinizione dell'identità legale, di definizione della cittadinanza per i bambini figli di coppie miste, e anche un programma di adozione tra l'Europa e gli Stati Uniti. Dobbiamo pensare che l'Europa del secondo dopoguerra era un continente di orfani, di bambini con genitori dispersi oppure deceduti in battaglia, oppure ancora bambini figli di coppie miste, che erano il risultato delle relazioni che le donne italiane avevano avuto con militari e anche civili tedeschi, perché dobbiamo anche ricordare che i rapporti tra Italia e Germania datavano un lungo periodo, e questo significa che in Italia erano da tempo presenti cittadini tedeschi, magari giornalisti che lavoravano come corrispondenti, oppure studenti di storia dell'arte, commercianti, imprenditori che erano venuti in Italia per ragioni diverse, e che poi dopo l'8 settembre del 43 improvvisamente da alleati si ritrovano ad essere nemici. Ecco, vorrei soffermarmi un attimo su uno dei passaggi del capitolo del libro Madri sole e figlie della vergogna, in cui si parla degli enti che si presero cura di questi bambini. Tra questi si segnala l'Istituto Provinciale per l'Infanzia di Mantova, fondato dal dottor Ernesto Soncini, che il 23 luglio del 44 poi subisce un violento bombardamento. Ecco, cosa rappresenta questa storia raccontata nel dettaglio nel libro? Ma rappresenta la cura, il bisogno di assistenza di cui che riguardava questi bambini, il desiderio di venire incontro al bisogno di cure mediche. Difatti in quegli anni non soltanto l'Istituto Provinciale per l'Assistenza all'Infanzia di Mantova, ma anche il Berfotrofio di Villa Sciarra che era al Gianicolo a Roma, oppure l'Istituto degli Innocenti a Firenze, la Real Casa Sant'Annunziata di Napoli, si prendono cura di questi numerosi bambini che sono abbandonati, discriminati perché illegittimi. Su questi bambini pesa il vizio d'origine delle loro madri, in un'Italia che ancora sconta nel secondo dopoguerra una mentalità per la quale le madri nubili sono donne scellerate, donne di dubbia moralità, che secondo la morale corrente non si farebbero scrupoli a rovinare dei buoni padri di famiglia. E pesa su queste donne ancora questo tipo di mentalità. E questi bambini poi seguono dei tragitti ovviamente diversi, appunto alcuni finiscono negli orfanotrofi, altri vengono adottati. E È stato possibile ricostruire poi le vicende successive di questi bambini che evidentemente poi hanno avuto la loro vita, immagino. Che sì. Vita hanno avuto? Ma una vita molto difficile, tanto che pesa su questi bambini il pregiudizio che diventino futuri delinquenti, che dietro appunto l'abbandono e il fatto di essere nati illegittimi ci sia un destino di devianza sociale, perché questi bambini soffrono l'incuria, la disaffezione, la mancanza d'affetto, la lontananza dal genitore, soprattutto il distacco dalla madre che non vuole riconoscerli, che si trova costretta per condizioni economiche oppure per il peso della vergogna su di sé ad abbandonarli. E questa mancanza d'affetto, io riporto nel libro diverse testimonianze di bambini diventati ormai adulti che raccontano la loro esperienza nel brefotrofio o nell'orfanotrofio gestito dalla Croce Rossa, e appunto si vedono costretti a sopportare uno stigma addosso, che è quello che li vede futuri delinquenti nella società. In realtà si tratta di storie molto tristi, di veri e propri drammi, di traumi che anche in età adulta stentano ad essere superati. Poi c'è un problema, un'ultima questione vorrei trattare, l'alto tasso di mortalità infantile che è presente in questi bambini, perché poi alcuni sono, come dire, fortunati tra virgolette, trovano una sistemazione, altri non ce la fanno. Sì, purtroppo, perché in questi luoghi, negli istituti provinciali d'assistenza all'infanzia o nei brefotrofi, non c'era ancora nel secondo dopoguerra una prassi igienico-sanitaria adeguata. Molto spesso i bambini sani venivano messi a dormire accanto ai bambini malati, oppure ancora quando venivano ricoverati negli ospedali i bambini malati venivano messi accanto agli adulti, quindi c'era soprattutto il problema della sifilide che dilagava all'epoca. E per la quale non c'erano ancora delle prassi igienico-sanitarie adeguate. Sì, infatti vedo che è trattato proprio nel dettaglio questo aspetto. Bene, allora grazie, ringraziamo la storica Michela Ponzani che è stata con noi questa sera per presentare e parlare del suo libro Figli del Nemico, le relazioni d'amore in tempo di guerra 1943-1948. Grazie a voi.